È uscito lo scorso 4 giugno, ma sarebbe il caso di dire che è uscito nuovamente, Donna Circo, un progetto discografico che riporta appunto disponibile, con una versione ovviamente reinterpretata, il primo disco femminista italiano, inciso nel 74 da Gianfranca Montedoro con i testi di Paola Pallottino. Noi ne parliamo con Suz, che è al telefono con noi, che ha coordinato questo progetto. Ciao, buongiorno. Ciao Alessandro, ciao a tutti. Ne avevamo già parlato su queste frequenze, ma vale la pena di ripeterlo. Come è nata l'idea di riproporre questo disco del 74? Allora, l'idea è nata da un incontro, quello con Paola Pallottino, che è l'autrice dei testi del disco del 1974, del disco di Gianfranca Montedoro. Questo disco, appunto, come è stato detto, non è mai uscito, o meglio, è stato realizzato e stampato, ma non è mai stato distribuito nel 74. Quindi questo ha provocato una grossa delusione sia per Gianfranca che per Paola. E Paola negli anni ha provato più volte a proporre a diverse cantanti di ricantarlo, di reinterpretarlo. È arrivata la richiesta anche a me a un certo punto, quando ci siamo incontrate, e siccome è un disco abbastanza importante, a me è venuta l'idea, insomma, di chiamare tante cantanti a reinterpretare i brani di quel disco. E così, insomma, è nato questo progetto, che è immediatamente diventato collettivo, perché tutte le cantanti chiamate in causa si sono appassionate ovviamente a questa storia, che ha qualcosa di incredibile, insomma, e ci siamo messe tutte alacremente a lavorare sui nostri brani, insieme ovviamente al produttore, che è l'unico uomo di questo progetto, ed è Ezra di Nomad Studio di Torino, il quale poi ha fatto un lavoro incredibile di produzione, di collante fra i vari brani. Questo perché noi ovviamente col Covid ci siamo ritrovati a lavorare a distanza per diverso tempo. I tempi poi si sono allungati tantissimo rispetto, insomma, noi pensavamo di uscire col disco già nel 2019, poi sono passati praticamente 2 anni. Fortunatamente ci sono state queste finestre in cui appunto si poteva incontrarsi durante l'estate, e il produttore, insieme a una band formata da Vittoria Burattini, Chiara Antonazzo e Irene Enea, sono riusciti loro ad andare in studio una settimana a Bologna, una settimana a Torino, e quindi a buttare giù i pezzi di questo nuovo disco, i brani, che poi noi cantanti, intendo, perché anch'io sono una delle 12 cantanti, abbiamo reinterpretato. Paola Pallottino non ha bisogno di presentazioni, perché, insomma, al di là del suo lavoro principale che riguarda le illustrazioni, massima esperta italiana, è stata anche paroliera di Lucio Dalla, quindi insomma se ne intende anche di questo. Donna Circo è una metafora. Donna Circo, sì. Allora, Paola ha scritto questo disco pensando a Gianfranca, pensando alla loro vita, alla loro condizione come donne negli anni 70. È la metafora praticamente della condizione femminile negli anni 70, descritta attraverso 12 numeri del circo. Quindi abbiamo appunto i trapezisti, gli ucuglieri, gli elefanti, la banda. Ogni brano tocca un tema che ha a che fare con la condizione femminile negli anni 70, e purtroppo anche con la condizione femminile degli anni 2000, cioè dei nostri anni, perché purtroppo la situazione è ovviamente, cioè come è palese, non è cambiata molto. Infatti volevo farti una domanda su questo, perché temi come l'aborto, il femminicidio, le disuguaglianze di genere sono, come dire, attualissime anche a quasi 50 purtroppo. Anni di distanza da quel disco. Purtroppo sì. Sì, infatti temi come l'aborto clandestino, come il femminicidio, come l'equità nelle relazioni di coppia, come la parità di genere, insomma, sono tutte cose con le quali ancora ci troviamo a confrontarci, purtroppo, appunto, a 47 anni di distanza dalla non uscita di questo disco. Oltre a te, chi sono le altre interpreti delle canzoni? Allora, le altre interpreti sono Nico Note, Nicoletta Margalotti, che è già insomma, è un nome conosciuto, cantante di Violet Hips. Tra l'altro, se noi diciamo siamo attive al momento e abbiamo altri progetti in corso, poi c'è Marzia Stano, in arte una, Valeria Sturba, Francesca Bono, Marcella Riccardi, già conosciuta come Be My Delay, Francesca Bono invece cantante di Ophelia Dorn, Vittoria Burattini, batteria di massimo volume, che qua si cimenta anche al canto, Alice Albertazzi, conosciuta anche come Alex, o Alice Tambourine Lover, insieme al suo compagno, Angela Baraldi, Eva Giratti, Enza Amato e Mike Clarelli della Metralli. Quindi siamo 12 per 12 brani. Come dire, artiste della scena indipendente del nostro paese. Ti volevo chiedere anche se ci sarà un'occasione prima o poi per, come dire, sentirle proposte dal vivo queste canzoni. Allora, per sentirle proposte dal vivo molto probabilmente bisognerà aspettare l'autunno, però presenteremo il disco con degli ascolti e dei talk in città, questo a partire da dopo il 2 luglio, che è la data in cui il disco uscirà in vinile, sempre per La Tempesta. Abbiamo appunto una prima data di presentazione da Sam Music Store, poi parleremo del disco con Laura Gramuglia a Frida nel Parco il 7 di luglio. Per ora questi sono gli appuntamenti di presentazione. Io, Susanna, ti ringrazio e insomma in bocca al lupo, e siamo tutti curiosi di sentirci il disco. Adesso andiamo ad ascoltare la traccia che hai interpretato tu. Grazie a te, grazie mille.